stiamo riprendendo, dai, piano piano. È meglio così. Oia. Io mi fa appena finito di mangiare. Oggi un po' più leggero, minestrone. Io faccio invece il ricotta muccia. Ehi, già va bene, minestrone a me piace tantissimo, è buonissimo. Poi quando fa freddo così, mi piace, un bel po' di formaggio sopra, a volte ci inzuppa anche un po' di pane. Gabba gabba, è pure noi. A te rimane a giugottoli di Gione con la salsiccia, buona rete sui cinti. Usa anche la pasta fresca, quella, la spiga d'oro. Cazzo, c'è una cannonata. La sfoglia d'oro. Mi sai, ci lavora un mio amico lì. È la sfoglia d'oro, è pasta buona quella. In via Guido Sieni, mi fa, in Chivie. Ci lavora un mio amico di Cantiere, già parecchi anni. È entrato da ragazzino e ormai è diventato come un figlio per loro. Perché mi sa che i padroni non hanno figli, una cosa del genere. Secondo che ce l'abbiano adottato. Meglio così, Oggi che è un bravo vicino e travagliatore. No, bravo e bravo, lavorando, ripeto, non l'ho mai visto, però già si vede che è una persona in gamba, ben educata e insomma, alla mano. Ciao, può già vendere in Bassavona, ya. No, infatti anche noi la prendiamo lì, andiamo di quella lì, proprio perché conosciamo tutta la situazione, là. Sì, no, già. Io anche l'altro giorno ho fatto la pasta al forno, ho fatto con le lasagne, buona redda in città, perché io sono lasagne fresche, non è contro di chi di... capito? Ehi, anche mia moglie, quando è fatta sulla carne macinata, si sceglie lì la carne e te la fa macinare davanti, capito? Se no ti dati gli scarti proprio. No, pure io già so di chi di un pocaretto. Su fissi, la compro in certi posti, no, non è meglio roba così, no. Sono molto, molto particolare come mangiando, capito? Poi la tantissime volte se trovo qualche amico della paglia, usilo, se no la prendo quella che fanno a Itri, che già è buona, che quella fatta, diciamo. In negozio, il salumificio, no? Salumificio Tirese, cioè me l'hanno regalata a me. Adesso la prossima settimana deve arrivare quella al finocchietto, che l'adoro. A telefono adoro amico. Mamma mia, quanto è buona. E noi ne abbiamo preso due l'altro giorno, era quella semi più fresca che è stagionata, però a mia moglie gli piace senza il finocchietto, invece a me piace anche col finocchietto, le mangio entrambe, dai. Cappa, la prossima settimana, oggi ho telefonato all'amico e ci siamo messi d'accordo. Uia, roba buona, che cazzo posso di gigione, posso, ora e domani ridazzi, mamma mia, qui si frecchi me. Frecca, sembra quasi salsiccia purputta mia appena fatta. Poi se la vuoi mantenere fresca o te la fai fare da loro direttamente sotto vuoto, quindi si conserva come quando la compri, la puoi tenere anche parecchie settimane, rimane sempre morbida e fresca. Se invece la tieni fuori si asciuga, si indurisce un po', si asciuga e si secca un po', dipende come la vuoi mangiare. No, compro gigioni freschi con pareggio. Scusa, anche gigioni freschi? Ma quelli della spiga, quello ho fatto ieri, ho fatto quelle. Ma sono ci devono avere o me? La roba fresca è fresca, non c'è niente da fare. No, già ci sono anche secchi e buoni. Io compro quelli puddo, compro quelli colorati, ma maniati, dai. Quelli c'è, cioè, color carota, color pisello. Pure quelli, e sei fatto nei bagagli, due da un pacco, forse. Sì, no, io la metà già mangio tutto, quasi tutto, sono onnivoro, metto il buco, dai. Cappa, no, io già, la verità è che queste cose mi piacciono, mi piace cucinarmele e mangiarmele, invece un bel niente mi piace solo mangiare. No, anch'io già, siamo alla cava, non sono un bravo cuoco, ripeto, però non moriamo di fame, tu. E la buona ultima, siamo fatto le seadas. Hai visto, le seadas io le ho conosciute, tu le hai mangiate al formaggio, no? Sì, dovrebbe essere il formaggio, quelli che è sempre della spica d'oro. Diciamo ci sia il formaggio dentro. Invece io quando ero bambino, da ragazzino, mia nonna le faceva, mia nonna era di Nughedu, San Nicolò, e le faceva però con la ricotta dentro, ricotta e uva passa e zucchero, non faceva l'impasto con l'arancio. E io le ho conosciute dopo quelle al formaggio, io pensavo che le fossero quelle di ricotta o l'uva passa e buco, invece ci sono anche quelle al formaggio, dai. Magari loro la fanno così. Quello era buonissimo, l'impasto che faceva mia nonna era buonissimo. Mi ricordo appena finiva di fare il ripieno, subito alle carte cose, le tagame. Sicuramente la fanno in una maniera particolare loro. Sì, invece del formaggio dentro ci va la fai preparare l'impasto, ci va la ricotta, l'uva passa dentro, lo zucchero e il limone oppure l'arancia grattugiata dentro. E poi fai il ripieno e le chiudi. E poi le friggi, li metti un cucchiaio di miele sopra o con lo zucchero, in base a quello che piace a te. Sei bene minde, come si dice. Gaffa, no, io li mangio. Li mangio se così, li mangio, senza miele, senza niente. Beh, lo sai che non ho mai mangiato, quindi ogni genere ci metto sempre qualcosa, sempre. E tu al naturale. Sì, vabbè, prima si facevano queste cose in casa. Era una festa, no? Si facevano le salsicce, si ammazzava il maiale in casa. E si preparava tutta la carne a pezzettini, no? Tutti sul tavolo a tagliare a pezzettini e poi si condiva. E l'indomani mattina ne prendeva un pugno, mio nonno lo metteva nella padella, faceva colazione e assaggiava se era condita bene praticamente. Se era tutto a posto, gli dava l'ok e via a insaccare. Buona vita era, no? Sì, dopo che si finiva di insaccare, con le budelle, poi rigorosamente budelle non ce n'era, prima roba sintetica, tutta roba del maiale. E poi si metteva a fumicare, quindi a fumicare, si faceva il fuoco e poi si toglieva un po' di fumo fuori, tutti appesi alle canne, era uno spettacolo, ragazzi. Me lo ricordo ancora, figurati, a distanza di più di 50 anni. Era fumicata con la cosa, come si chiama? È proprio fumicata con la legna buona. Oggi invece cosa fanno? Vuoi la salsiccia fumicata? Vendono i barattoli come quello di tinta, di vernice, pieni di fumo sintetico lo chiamano, che è una specie di brodaglia che ha l'odore del fumo. La immergono dentro lì e poi gli dà il sapore del fumo, capito? Ecco qui. No, chi è serio? La bandiera antica, chi è serio? No, non è parte di chi si cose. Prende proprio quella cosa che ci vuole, la fa così, è naturale. Ehi, tanto, non sono tutti che hanno la possibilità di affumicarla, diciamo, in maniera naturale. Molti usano questo fumo sintetico, ti interrogiamo. Me l'ha fatto vedere un macellaio, me l'ha fatto vedere. Ma aperto, sembra come un vernice di tinta. La salsiccia fresca, la immergi dentro, non so per quanto lo lasci dentro, ma non assai. E si prende l'odore del fumo, la buccia, la pelle. Poi molti hanno la cosa, hanno il... come ti si chiama? Però la salsiccia fatta naturale ha un altro gusto, non quello da il fa. La fumigatore ce l'avranno, qualcuno ce l'avrà, sì, quelle in gamba, sì. Fumicata, quella no, sì. C'era un macellaio anche a Sosto, faceva questa pancetta arrotolata che era buonissima, cazzo, no? La faceva lui proprio lì. Ma sicuramente anche una roba naturale. Si sceglieva la carne bella, buona, la condiva e a volte qualcuno me la prendevo intera, perché non erano tanto grandi, erano meno di un palmo di lunghezza, no? Grosse, una decina di centimetri, belle arrotolate, legate. E me la affettavo a casa, a volte poi la usavo anche per cucinare. È buona, a fa la carbonara puro, molti mettono il guanciale, a me piace la manzetta. Quello che c'è, quello che passa al governo, la tua. A volte ci metto anche salsiccia, a volte vanno in mano, per subire un attimo. Ci sentiamo, tu, mi chiamano a mangiare, dai. Ok, dai, ci sentiamo, ciao. Ciao. Chi è avanti? Chi è? Yeah. C'avevo roba da fare qua in macchina, in casa, e quindi niente, ho diseppellito questo apparecchio, questo Linco, sempre un baracchino, vedo che sembra che vada tutto bene. Ditemi se ho scariche microfoniche. 1, 2, 3, prova, test 1, 2, 3. No, ne hai, già stai uscendo bene. Ciao Marcolino. C'hai un coso, c'hai un preso una puzzetta, non so se sei giù. Lecca lecca, Mi anche quel coccone natalino c'è, beh, Natalì. Ciao Marcolino. Beh, novità, l'antenna piacciata? No, negativo, ho avuto dei problemi. I problemi si risolvono in calibro 9 per 21. Vai Anto. No, adesso anche col parabillo. L'hanno liberalizzato in Italia, infatti vedo che cambia la canna. ho sentito. Cambiati la canna. Ui. Vai Anto. Dai, riprendete voi, che tanto io sono avanti e indietro. Quindi funziona tutto bene, va bene, sono contento. Questo è un Linco X10. Praticamente Natalia è il fratello minore dell'HR 5005. È in scala ridotta, però è lo stesso apparecchio. È bellino. Io ne devo buscare uno per mettermelo in macchina, perché è troppo grande quello che ho io, uno piccolino ne voglio io. C'è propagazione sui canali alti, discreta anche. Sulla tripla 5 di X stanno facendo voci lontane, penso inglesi. Per via dell'alta pressione, dai. Riprendi Antonio, correti per me. Ciao a tutti, ciao. Ciao Luca, chi altri c'è? Boh. Vai Antonio. Ciao, sentiamo. Ciao. Natali, c'è qualcosa a fare, io un'altra gabbiatura anche per pulire l'antenna. No, c'è quell'infame di questura che non permette. Non ti preoccupare, già la piazzerò, non adesso, ma già la piazzerò ugualmente, anche se lui non vuole. Che fame di questura? Ma vai! E a quello lì in questura bisogna picchiarlo per starsi zitto. Ma c'è il culo di boi, scappa, va. Ma manco male che io sono grinocchio che me, che non mi dice più becca nessuno. Quando devo fare, prendo la scala, apro, so che attende. Io lo so, ma intanto una scala già me la devono dare, me la devono prestare, una scala di 10 metri, quando la Puglia me la dà. E non c'è problema. E allora fallo. Ti do la mano pure io, mi di domenica. E di domenica non si può fare perché quel lì è chiuso la domenica. Capito? Non vuoi dire che finisce male la scala e poi mi tocca pagarmela. Ah, lui chiuso. E quello che mi deve prestare la scala è un'attività, capito? Ah, ho capito. La scala c'ha 10 metri, c'ha cara. Sì, quella che mi deve prestare, sì, a me me ne passano 6 per arrivare alla finestra di quello lì e sganciare la mia. Non si può alzare un'altra gabbiuria. No, se no me l'avrei messa sul tetto, non l'avrei messa in facciata. Se potevo farlo l'avrei fatto. Ma cosa avevo? Non c'è la botola per salire su. No, un negativo. E poi il tetto, se tu rompi qualcosa tocca pagarti tutto il tetto. Non sono mai salito per quello io, perché non c'è né botola né niente per salire, che l'hanno chiusa. Ah, ecco. Però devi fare quella maniera, sali col muratore, ne togli un paio di tegole e sali. Non c'è problema. Ma non c'è il posto per salire, bisogna entrare dentro un appartamento per poter entrare, capito? Io chiavi non ne ho dell'ultimo piano. E poi il reato, violazione di domicilio, cosa ti chiedi? Mani la ricciampa, piazza Monte. Ah, ecco, ora ho capito. Guarda cosa è, Natale, si va di là, si può fare, cambia la scala aerea e piazza. Ma vivo non mi di là, però, venivo in otto senso solo di Gamarra. Ma pure la papinia, che se no manco mi vengo, vivo nel bel mese di un comune, e venivo poco di mangiare la cuglia. A me per un amico mio me l'avrebbe fatto per 200 euro. Un amico tuo? Non un amico mio, una persona che conosco, mi ha detto che mi prendeva 200 euro, mi ha detto che mi prendeva. Ma senza permessi, senza un cazzo, entravi, pazzia e basta, se ne andava. E infatti, così io devo fare. Sali a una scala aerea. In realtà tu l'avevi sfilato una vita e sei entrato una nuova. Scappa. Bisogna parlare, perché tanto è un piccolo che non entra la macchina, non entra nulla. Ha fuggiato appena appena in Kiwi. Vabbè, bisogna farlo un giorno che non capito. 10 minuti, anzi, ero buone. Cioè, è una cazzata con la scala aerea. Già lo so. Un Deli entra lì, in quel vicolo il Deli c'entra. Allora, te facciamo a qualcuno che sia disponibile. Se era stato per 200 euro l'avevi fatto subito. Adesso già me lo faccio dire da quest'altro mio amico, vedi, Cantubigliani. E informa che mi fai sapere. Scappa, Luca, ci sei? UTC per Natalino. Avanti. Allora, Natali, tu avevi trattato un autoradio DAB, no? Ti eri lamentato che non trovavi stazioni, o pochissime. Siccome l'ho montata anch'io, sia radio FM sia normale, ho notato che con l'antenna di serie dell'autoradio, che c'avevo l'adattatore SMA, sotto casa, quindi in mezzo ai palazzi, chiuso in mezzo ai palazzi, prende solo due stazioni. Può essere? Ma cosa? Il segnale delle radio nuove che sono uscite? Sì, esatto, la radio DAB digitale prende poco e niente rispetto all'FM. Naturalmente non ho messo l'antenna sua dedicata, che è brutta, è di quell'antenna retro, credo che sia anche alimentata dall'autoradio stessa. Non la voglio mettere quella, se possibile. E poi finché c'è l'FM mi godo quella, poi si vedrà. Esatto. io ho messo un'altra antenna, ho messo, che praticamente è quella la frequenza, dai. E non l'ho provata ancora se ne entrano stazioni, perché prima pochissime, perché non era ancora arrivato il segnale qua. Ma tuttora è un po' misero, almeno in mezzo ai palazzi è così. Sì, la frequenza della radio DAB russa, non mi ricordo, 170-220 MHz, capito? Quindi intorno ai 200. Praticamente è raddoppiata rispetto all'FM normale, capito? Va bene, riprendi Antonio, cuore X per me. Capa, aspetta che sto chiamando... se mi risponde questo amico, se non mi risponde riprende. Aspetta un attimo che mi sta rispondendo questo amico mio. Eccoli, dimmi come ti sto arrivando, sto usando quell'apparecchio là. Nathalie, qui è a LED LCD, sei incollato fondo scala, cioè non fa testo. Quale? Fammi capire, quello che ho nominato prima, 5-5. No, quello che ti ho detto, Oddio, mandami un messaggio perché l'Alzheimer non mi permette di ricordare cosa ho mai mandato. Aspetta. Ehi, fai. Luca, ci sei, riprendi. Bei tempi, mamma mia. Ma io chiedo, la pressione, non aveva mai avuto pressione alta, ictus? Guarda che ha resistito per 30 anni alle angherie di... Hola. Un po' tutti, Natalino! Oh. Allora, mi sono informato. Allora, c'è questa ottava che ne dà 150 euro al giorno, capito? Addirittura vai la biglietto, ti fai il lavoro e poi gliela restituisce. C'era anche la più piccola, mi pare che arriva fino a 20 metri addirittura, capito? Prendi il mezzo, glielo devi restituire col pieno, tutte cose, capito? Ma che cosa? Ma le scale? La scala aerea. Non la può guidare, Natalio, se non c'ha il patentino. E questo non lo so. Tu hai il patentino per guidare quella roba lì, anche per la gru, per tutto. Lo so. Ma a provare uno col patentino lo trovo subito io, me. Ma beh, se lo trovi subito io, ma comunque lui non la può guidare. No, aspetta un attimino. Guidare la può guidare, non può operare, è diverso. Non può, Ned non può, non la può. Però se lui prende il mezzo, la guida, non succede niente, non può operare, che è diverso. Ci siamo capiti, ci vuole il patentino, non so che lo può guidare, non può operare, esatto. Lui, diciamo, amico mio, diciamo, già buia ghiaccia. Guarda su WhatsApp, Marco. E io adesso guardo. Doppio. Buonasera, quello di sotto è mio, a tutti. Ciao doppio. Poi Marco, mi sei sentito, buonasera. Ciao già. Ciao. Di che si parlava? Di Antenna. Cappa, di scale aeree. Ma volendo, se c'è i soldi si può fare. Se c'è i soldi si può fare quel lavoro lì. Quindi la dici, se si vi attende, non la metti neanche in facciata più. Lo so, ma non puoi pagare il tranquillo per piazza. Ma chi l'ha detto? Magari ha detto tutto dentro, ma la cosa... Vedi che non legge a Giosso, a Ottava. C'è quell'operatore tutto qua. Se ti costa 200 euro, andrà bene. Le cose prima di parlare bisogna chiederle. Non chiedi, non le sai. A me comunque Gigi Vulcano mi ha detto che vogliono 800 euro di caparra. più quello che hai detto tu, mi costa più di 1.000 euro. Se no non te ne danno. Quello non lo so. Ma forse per le grandi, ma per una minoretta. No, non penso che assolutamente che sia così. Bisogna, allora, prima di dire, bisogna telefonare e chiedere. Se tu non telefoni e chiedere, è sempre per sentirti dire. Quindi, non lo sai. Lui ci dice che lo faceva quel lavoro. Capito? E lui lo sa come funziona, se no non ci vengono neanche. Vabbè, poi bisogna vedere, dai. Ci sono anche i privati che se glielo dici per poco te la fanno, non è così, no, dimmi che non hai buoni, la cruce cermelli, hai dei buoni, una, cioè, hai dei buoni, una minoretta hai dei buoni, non costa così, secondo me sono cazzati poi, cioè tu non chiedi veramente a chi ce ne intende, a che cosa, tu non lo puoi sapere, punto. Vabbè, tu chiedi, mi fai sapere. Scappa, io ho sentito dire no, non prendo mai niente, io vado e chiedo e dico quanto ci vuole realmente, non ho sentito dire, a me ho sentito dire no, non mi piace questa cosa, io vado, chiedo e basta, avanti a chi tocca. Andiamo, andiamo. Niente. Casino, ecco. Ma poi giù un Campari, che buono. Ma qui invece una crema al cioccolato. Che schifo, non mi piace. Non mi è troppo odessa, no, non meglio la pesce normale. No, se mi butto un bitter, la cosa Campari. Sì, Campari, ma mi fate schifo. Questo è buono, questo è buono. No, non mi piace già, l'ho già bevuto, non mi è troppo odessa, no. Meglio il bilis normale. Quella è troppo densa, ho già bevuta, fucci. Ma perché per verità, ma già mi piace. Troppo mangiata. Ma non è troppo dolce, batte. Non è che la fanno puntare, lei la fanno puntare. Non c'è la glicemia, è già a posto. Non è maludita. Diciamo che durante la giornata ce l'ho sempre a posto. La notte, mi sale la macchina, ce l'ho sempre un po' alta. E poi si riprende. È alta quanto? 200, 180. Ma mi piace più uscire la mattina. Vabbè, solo la mattina la misura. Devo misurarla praticamente. Devo alternarsi. Dopo 2 ore la mattina e dopo 2 ore, cioè dopo 2 ore la colazione e dopo 2 ore la cena. Capito? Va a fare ogni giorno così. Adesso solo la mattina sulla misura si fa l'insulina, lì fa 40 unità di siliqua. Allora si misura prima e dopo, prima colazione, prima della colazione, tutta colazione e poi la misura di 2 ore dopo. E vedi come. E così fa soltanto perché. Purtroppo non è fatta, cosa ti posso fare? Il diabetologo gliel'ha detto, domani chiamo e gli prendo l'appuntamento, ci vediamo bene. Ah, ho visto, ho montato la macchetta anche 265 salita. Quindi, qua è da. Ma a volte anche facendo la vita si sta lo stesso. Vabbè, quando sono le cose è perché mangia due gatti cosa di dolce. Ma non ho giambi di mandarini, mi sono ben dolci. Quello che ti frega, ne deve mangiare una. Ma ce ne mangia due, tre. Poi non posso fare nulla già. Sai, sto qui che mi ha tintarla, cazzo. Lo sai, sei grande macchina. Infatti, sei a regime. Cioè, non sei a regime, vengo su qua. Avanti a tu. Cosa vuoi farlo? Ma è proprio magnani, magnani. Ora va bene con me anche per rubare. È diabetico, ma basta, si la magna. Vabbè, finché uno ogni tanto andava a tu. Per cacchi me, per me sono, non deve mangiare né banane né mandarini, se non mangia ne mangiano di uno come ha detto Gianni, oppure l'arancio metà, che sono grandi, solo me le può mangiare come frutta, le banane, mandarini, cacchi me, tutta questa cosa così uffa, la vita sa. Cosa vuoi fare, dobbiamo mangiare, è una cosa incredibile. Non è facile. Lo so, però vabbè, io se è stato diabetico non avrei mangiato. Oh, vabbè, anche il pane, devo già mangiare uno, che su è? Se c'ha fame, vedo, può mangiare mezzo bicchiere di... Deve mangiare verdura, tipo pomodori, roba così, cipriori, c'è il fame, mangio, quello è comino che fa brutta. Nemmeno il pollo fa salire la glicemia, il pollo, quando mangi il pollo c'è la sotto regolare. Invece se mangio così, la pettina me la mangio a sta. Poi te ne parla a sta. No, normale, è arrosto. E come te la fa salire? Perché la mangio col pane? Ah, mica! Come te ne vagate infatti già? È normale, il pane te la fa salire. Carboidrati. Ma ci vivevamo da solo, Luca, che stai a fare? Io conoscevo una signora che ha detto che quando usciva col marito che era diabetico, lei si comprava il gelato e il marito diceva no, no, non è buio, dai, no, mi fa male questo e quell'altro. Allora prendeva come bambini, gli faceva il gelatino, si toglieva il petto di sotto del cono e gliene dava appena appena per farglielo gustare. Quindi si era diventato tutto e gli andava a mangiare il gelato. Non è molto difficile, è molto attivo giù un tumore e si è rimasto. Lo so già, ma purtroppo se uno si tiene la regina sta bene. Ogni tanto come tutto ci può anche stare, no? Una santa di gusti. Scusa. Guarda, a me a volte mi siamo abbassata anche a 75, 80, la glicemia. Mi frega sempre la mattina. Purtroppo la notte sale. Lo so, anche a me c'è la 69 tra le volte. 69. Sì, comunque, è un casino, bisogna stare attenti, ma io non piatto in maniera di dozzi, adesso vediamo che ho fatto, ho fame, devo far merenda, mi sono mangiato quei biscottini, non lo spiego, sembra un ricco, uguale, sono buoni comunque, qua ce ne sono quattro, boh, un liter, basta, adesso mi metto un bicchiere, e poi se ho fame dopo mangio una banana, un cacomela, un mandarino. Ecco per un controllo. Avanti. Salve, buonasera, Mario Porto Torres, paramobile. Volevo sapere come sto uscendo. Sono qua, avanti, grazie. Allora, il segnale è 5, oscillante, 5 a 7, radio 5. Da questa parte Luca Monte Rosello, avanti, riprendi. Ma Luca Monte Rosello. Mamma mia. Arrivo così piano da quelle parti lì, eppure siamo vicini, non siamo lontani. Va bene. Grazie mille. Avanti l'altro che non mi ricordo chi è. Non ti avevo più lungato. Quasi 9.5, radio 5 partenza. Non so dove tu sia, la parte mia, zona via Valletta. Cappa qua, io sono Antonio 6, Santiago 8. Radio 5, zona Sassa di Vecchio. Portatilino qua, grazie. Qua così mi segna, 5-7, sì, 5-7. Ma dove ti trovi, Mario, scusa? Sono qua a Città Merché. Vabbè, non è che sei vicino a noi, Sei a Sassari, ok, poi bisogna fare che antennai. Da lì di solito mi arrivano sparati. Secondo te hai pochi fatto, non so, con un antennino piccolino. Vabbè, ok. No, c'è anche un portatile, c'è un portatile omologato, quindi l'antenna è in macchina, chiaramente è piccolina, però anche quella è una magnetica e fa anche miracoli, devo dire, tutto sommato, dai. Grazie per il controllo, continuate in queste ore, rimango in QRX, ascolto e intanto vado a fare un giro. Ciao, grazie, avanti pure. Ciao Mario, ciao, una passeggiata allora, avanti. Cappa, no, qua è abbastanza forte Mario, non c'è problema. Cappa, ciao Mario, salutoni. Vabbè, no, sentivo, di solito non lo sento mai, già va bene, andare, capito, già così, E così, bisogna stare attenti. Adesso speriamo domani sia negativo, così mando il foglio al dentista, ma la prima cosa che faccio è quella. Poi io vabbè, ho delibo tante cose da fare, devo rispedire un po' indietro, che mi devo rimborsare dei soldi. Gli va tanti gozzi, cazzo, speriamo bene. Oia. Ma quel telefono là, poi, hai già stato la visita, quello uguale? aggiustato e venduto. E te l'hanno messo a posto bene? Come? L'hanno messo a posto bene? Sì, sì. Come se me l'ho mandato e me l'hanno messo a posto male, è fatto proprio di te. E io. Sono arrivato. C'è il telefono bagato per dentro io. Ma adesso va per costare un poco, pagando il 2002 per uscire. Basta prendere Samsung e non sbagli. Già, prendendo a piedi i telefoni, tipo il tuo Oppo, per me non si può niente questi telefoni Oppo, non lo so, Samsung, io non ho mai problemi con i Samsung, sono andato sempre alla grande, dal più povero al più ricco, cioè al più costoso, capito? Ah, il mio funziona benissimo. Io c'ho l'Oppo e anche mia moglie ce l'ha e funzionano bene. Vabbè, io punto sempre sul Samsung, mi trovo benissimo, il mio è super veloce, si blocca domani, sì. E il mio mi sei facciato il Samsung, tanto è vero che ce l'hai tu. E lì sempre tutto smontato, no? Non è che l'abbia riparato. La scheda madre è partita Natalia. La scheda madre, capito? Non è che ti si è rotto perché voi dovete andare a Gussi. A me funziona ancora, vabbè che è un telefono un po' costoso. Non è un telefono che costa poco. Ma quello vuol dire costare poco, costare molto. Se ci faccia si faccia. Ehi, già lo so, ce li ho avuti anche io i Samsung. Samsung, non è un problema. Adesso questo qua, vabbè, la batteria è già dura, ma sono io che lo uso un po', sto sempre manovrando, capito? Si consuma, però dovrò cambiare, ma me la cambio la batteria. Ma, no, io la batteria va benissimo, dura due giorni, secondo giorno è al 60%, ma anche se non lo metto, cantando, facendo, io lo uso un mesino. E adatte, vabbè, questo qua ha i suoi anni, c'ha 2 anni che ha questo telefono e più. Però se lo vedi è nuovo, nuovo di pacca, non va, non è a, come si dice, è nuovo, e l'ho preso anche usato. Ah, ti l'ha più usato, vabbè, quando ti prendi usati che vanno bene, fai le affari, perché è nuovo e quindi costano bene. Questo qua ha costato 700. E tu quanto ne pagato? Una cazzata, 200. Ma era, c'era qualche problema? Nulla, ci viene di là. Sono soldi urgenti e ho dato la cifra di dato, un altro telefonino anche, ma era un S3 di. C'era anche tu l'S3, col vetro rotto, mi serviva un telefono così andante. Questo qua era con la garanzia, con la casco anche. Sì, l'S3 ce l'ho anche io. Ce l'ho ricordi che l'abbiamo fatta nuova, gli ho cambiato la batteria e il vetro. Chiava, sì sì. E poi dopo che l'hai aggiustato, io l'ho messo da parte, perché è lento come telefono. Ma non è il telefono lento, è che purtroppo le app più stanno andando, più stanno crescendo di mega, capito? Guarda, il mio funziona benissimo, funziona, non mi ha mai dato nessun problema. Poi su aggiornamenti tranquillo, me ne hanno rinnovato gli aggiornamenti ancora. E funziona, che è una meraviglia, non mi posso lamentare. Il Xiaomi Redmi, l'otto ticcio, e funziona bene, non mi ha mai rotto le palle. Io ce l'ho preso un 9 e non funziona bene, perché si sta dopo con il telefonato. Spiegare i problemi da poco. Ma chi su può essere pure un ripetitore? Allora, praticamente mi succede che scopo il terreno pubblicizzato e poi manca la linea. Cappa. Ma quello potrebbe essere lì, potrebbe essere. Non so, cos'è che operatore c'hai? Leica mobile. Passato sei già. Cosa? Ma Leica mobile sei passato. Ma quando me l'ha detto? Ah, io mi trovo benissimo, già non posso dire, ma uso io, ero un mese. Me ne avanzano, già i gatti me ne avanzano, io vabbè ho la connessione a casa pure. Ma comunque non collegando, me ne avanzano un bel giga, io non è che ci vado chissà cosa. Gioco così a poco, il video ne guardo pochi. Ce l'hai già a proposito, che ti mandato un film, ce l'hai Instagram? C'è un film carino, praticamente questi qua sono carcerati, 12 carcerati, però non so questo carcere dove sia, quello italiano, di cui ce ne sono due sardi, uno non so dove sia, uno è di Sardegna, e poi è sassarese anche, sai che fuori di Gabbo. Veglia, si lamenta, un uomo grande che si lamenta, senza risico la vita, io me li voglio andare, no, vi piremmo, va, dopo no, aspetta, vediamo un po' se li trovo su Instagram. Ma tu guardi che si chiama Aria Ferma. Lascia vedere, quanti cazzo in via, buh. Aria Ferma. Allucinante, dura un'ora, due ore quasi dura. No, aspetta, un'ora e 57 minuti, sì, sì. Non si grado su quella batteria. Lascia vedere, condividi, lascia vedere. Vediamo un po', se me lo fa condividere. Su Instagram, ti cerco. Scappa, eccomi qua. Ecco, ora. E se andando in troppo tu. Ora. No, non ci sei su Instagram già. Oh, sotto c'è Natalino. C'è un po' di gente. Costanza Sana, Massimo, Mirko, Mauro, non so chi sì. Io guardo, non guardo Instagram. Guardo filmati. Perdonami già, Telegram, Telegram. No, Telegram non ce l'ho. È su Telegram comunque. Sì, si chiama Aria Ferma, non so se c'è su Netflix questo film, ma bello mio, va, bello veramente. Qui ha detto questo ragazzo giovane, come entra in galera praticamente non parla, parla poco, niente da. Lo porto alla patria dei carabinieri. Dopo un po', come si dice, lo interrogano, lo richiedono perché hanno arrestato, proprio per scippo, addirittura ha picchiato questo signore anziano, ha picchiato forte, l'ha mandato anche all'ospedale, in fin di vita. E vabbè, un film, là. Ma non ci sono anche l'albero, mi ci lascia nessuno, gli ha picchiato l'anziano, ma di subito per compagnare la droga. Non so che lo fanno, è soggetto di merda. Quella vuole pulita, punita, punita, lasciata chiusa, boh, multa, non esiste più. Invece li fanno fare qualche anno di galera, fanno di nuovo uscire e fanno di nuovo danno. Ma adesso è uscito fuori, a quanto pare, sta facendo fare tipo un traviato con gli anziani. La carità, niente malata, che vai a travaglia, tu vuoi druga, vai a travaglia. Ma no, mi sta contatto con gli anziani, poi c'è per farvi capire che persone sono, quello che ha combinato. Lo sto avanti. Che cara è Ghiccio, che c'è un bacio qui dentro? E cosa ha fatto? Ci pare un vecchio, l'hanno picchiato e gli hanno rubato il tutto. È di basso omega. Comunque a quanto pare adesso c'è più pulito che non si sta più facendo. Mamma mia, cioè, troia, per carità, cazzo, a comportarsi così. Io si vuole pulire un anziano, ma secondo che anziano trovano, come quello che stava ritirando col papà, che è andato con la moglie per già i soldi. Questo aveva portato un anziano, da giovane, e anche se era anziano. Se vi ricordate, questo che è andato a rubare gli studi, ha detto un paio di carabatteggio, e l'ha lasciato in terra più lì. Bene, bene, ma sto scherzando che vai a fare una cosa del genere. Gli avrei picchiato, cazzo. L'ha ammazzo di invaria, mamma mia, che gente qua. Purtroppo se la prendono con le braccione di deboli, capito? Vanno nelle case adesso con le mascherine, dicono che li ha mandati, che li stanno distribuendo dallo Stato, stanno distribuendo le mascherine per vedere la misura, se la fanno misurare, e ci mettono uno spray che ti narcotizza e ti rubano il tissù. Ma non puoi tra nessuno, assai tu. E quello è vero. Cappa. Oioioio.